Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Milady si congedò dalla badessa e si coricò, sovemente cullata dalle idee di vendetta. Ricordava la promessa quasi senza riserve fattale dal cardinale. Se fosse riuscita nella sua impresa, era riuscita. Avrebbe dunque potuto vendicarsi di D'Artagnan. Una cosa sola la spaventava: il ricordo di suo marito, il conte di La Fère, che ella aveva creduto morto o almeno lontano dalla Francia e che ritrovava in Athos, il migliore amico di D'Artagnan. Però, se era amico di D'Artagnan, di certo l'aveva aiutato in tutti gli intrighi con cui la regina aveva mandato a vuoto i progetti di sua eminenza. Se era amico di D'Artagnan, era nemico del cardinale e senza dubbio ella sarebbe riuscita a coinvolgerlo nella vendetta tra le cui spire contava di soffocare il giovane moschettiere. Tutte quelle speranze erano, per Milady, soavi pensieri che cullavano la sua mente, tanto che in breve si addormentò. Fu svegliata da una voce dolce che risuonò ai piedi del suo letto. Aprì gli occhi e vide la badessa accompagnata da una giovane donna dai capelli biondi, dal colorito delicato, che la fissava con uno sguardo pieno di benevola curiosità. Il volto di quella giovane le era del tutto sconosciuto. Entrambe si esaminarono con scrupolosa attenzione, pur scambiandosi i complimenti d'uso. Erano entrambe bellissime, ma di una bellezza del tutto differente. Tuttavia Milady sorrise nel constatare che il suo aspetto di gran dama e i modi aristocratici la rendevano superiore alla giovane. Bisogna anche dire che l'abito da novizia che la giovane indossava non le giovava di certo in un confronto del genere. La badessa le presentò l'una all'altra. Poi, adempiuta tale formalità, siccome i suoi doveri la chiamavano in chiesa, lasciò sole le due donne. Vedendo Milady coricata, la novizia voleva seguire la superiora, ma Milady la trattenne. «Ma come, signora?» le disse. «Vi ho appena veduta e già volete privarmi della vostra presenza, sulla quale contavo un poco, ve lo confesso, per il tempo che devo trascorrere qui». «No, signora», rispose la novizia, «temevo di aver scelto male il momento. Dormivate, siete stanca». «Cosa possono chiedere le persone che dormono?» disse Milady. «Un buon risveglio. Questo risveglio me l'avete dato. Lasciatemelo godere a mio agio». E prendendole la mano, l'attirò su una poltrona accanto al letto. La novizia sedette. «Mio Dio», disse, «sono proprio disgraziata. Mi trovo qui da 6 mesi, senza l'ombra di una distrazione. Arrivate voi, la vostra presenza sarebbe per me una compagnia deliziosa ed ecco che, con ogni probabilità, da un momento all'altro lascerò il convento». «Come?» disse Milady. «Uscite di qui a poco». «Per lo meno lo spero», rispose la novizia con un'espressione di gioia che non cercava affatto di nascondere. «Mi è stato detto, se non sbaglio, che avete sofferto per colpa del cardinale», continuò Milady. «Sarebbe stato un altro motivo di simpatia tra noi». «Quel che mi ha detto la nostra buona madre è dunque vero? Anche voi siete una vittima di quel malvagio cardinale?» «Silenzio!» fece Milady. «Anche qui non parliamo così di lui. Tutte le mie disgrazie derivano dall'aver detto pressappoco quel che avete detto voi in presenza di una donna che credevo mia amica e che mi ha tradito». «E anche voi siete la vittima di un tradimento?» «No», rispose la novizia, «ma della mia devozione a una donna che amavo, per la quale avrei dato la vita, per la quale la darei ancora». «E che vi ha abbandonato, è così?» Sono stata tanto ingiusta da crederlo, ma da 2 o 3 giorni ho saputo con certezza che è vero il contrario, e ne ringrazio Dio. Mi sarebbe costato credere che mi avesse dimenticato. Ma voi, signora, continuò la novizia, mi pare che siete libera e che se voleste fuggire non dipenderebbe che da voi. Dove volete che vada? Riprese Milady. Senza amici, senza danaro, in una parte della Francia a me sconosciuta, dove non sono mai stata. Oh, esclamò la novizia, quanto amici ne avrete dovunque vi mostrerete. Sembrate così buona e siete così bella. Il che non impedisce, disse Milady, addolcendo il suo sorriso per dargli un'espressione angelica, che io sia sola e perseguitata. Sentite, disse la novizia, bisogna confidare in Dio, ecco. Giunge sempre un momento in cui il bene che avete fatto difende la vostra causa dinanzi a Dio. Sentite, forse è una fortuna per voi l'avermi incontrata, per umile e debole che io sia, perché se esco di qui ho alcuni amici potenti che, dopo essersi dati da fare per me, potranno anche darsi da fare per voi. Oh, quando ho detto che ero sola, ricominciò Milady sperando di far parlare la novizia parlando di sé, non volevo dire che mi manchino conoscenze in alto loco, ma loro stesse tremano di fronte al cardinale. Perfino la regina non osa tenere testa al terribile ministro. Ho la prova che sua maestà, nonostante il suo cuore eccellente, più di una volta è stata costretta ad abbandonare alla collera di sua eminenza le persone che l'avevano servita. Credetemi, signora, disse la novizia, può sembrare che la regina abbia abbandonato queste persone. Non bisogna però giudicare dalle apparenze. Più sono perseguitate, più lei pensa a loro. E spesso, quando meno se lo aspettano, hanno la prova che ella non le ha dimenticate. Ahimè, disse Milady, lo credo. La regina è così buona. Oh, allora la conoscete, questa bella e nobile regina? Se ne parlate così, esclamò la novizia con entusiasmo. A dire il vero, riprese Milady, respinta nelle sue trincee, lei personalmente non ho l'onore di conoscerla, ma conosco molti dei suoi amici più intimi. Conosco Monsieur de Putange, ho conosciuto in Inghilterra Monsieur Dujard, conosco Monsieur de Treville. Monsieur de Treville! Esclamò la novizia. Conoscete Monsieur de Treville? Sì, proprio. Anzi, molto bene. Il capitano dei moschettieri del re. Il capitano dei moschettieri del re. Oh, state a vedere, esclamò la novizia, che fra poco saremo vecchie conoscenze, quasi amiche. Se conoscete Monsieur de Treville, sarete andata a casa sua. Spesso, rispose Milady, che imboccata quella via e constatato che la menzogna dava buoni risultati, voleva arrivare fino in fondo. In casa sua avrete certo veduto qualcuno dei suoi moschettieri. Tutti quelli che riceve di solito, rispose Milady, per la quale la conversazione cominciava a farsi realmente interessante. Nominatemi qualcuno di quelli che conoscete e vedrete che saranno anche amici miei. Ma, disse Milady impacciata, conosco Monsieur de Louvigny, Monsieur de Courtivron, Monsieur de Ferussac. La novizia lasciò dire. Poi, vedendo che si fermava, chiese, non conoscete un gentiluomo di nome Athos? Milady divenne bianca come le lenzuola del suo letto e, per quanto padrona di sé, non poté trattenere un grido, afferrando la mano della sua interlocutrice e divorandola con gli occhi. «Cosa? Che avete? Oh, Dio mio!» domandò la poveretta. Ho forse detto qualcosa che vi sia spiaciuta, no? Disse Milady, ma quel nome mi ha colpito, perché anch'io ho conosciuto quel gentiluomo e mi sembra strano trovare qualcuno che lo conosca bene. Oh sì, bene, bene. E non solo lui, ma anche i suoi amici, Monsieur Porthos e Monsieur Aramis. Davvero? Ma io conosco anche loro, esclamò Milady, che sentì un gelo scenderle fino al cuore. Ebbene, se li conoscete, saprete di certo che sono amici bravi e leali. Perché non vi rivolgete a loro, se avete bisogno d'appoggio? Ma, balbettò Milady, non sono in stretti rapporti con nessuno di loro. Li conosco per averne sentito parlare da uno dei loro amici, Monsieur D'Artagnan. Conoscete Monsieur D'Artagnan? Esclamò a sua volta la novizia, afferrando la mano di Milady e divorandola con gli occhi. Poi, notando la strana espressione del suo sguardo, scusate, signora, a che titolo lo conoscete? Ma, rispose Milady impacciata, a titolo di amico. Voi mi ingannate, signora, disse la novizia. Voi siete stata sua amante. Lo siete stata voi, signora, ribatté Milady a sua volta. Io, disse la novizia, sì, voi, adesso vi riconosco. Siete Madame Bonacieux. La giovane indietreggiò, meravigliata e impaurita. Oh, non negatelo, insisté Milady. Rispondete. Ebbene, sì, signora. L'amo, disse la novizia. Siamo forse rivali? Il viso di Milady si accese di un fuoco talmente selvaggio che, in tutt'altra circostanza, Madame Bonacieux sarebbe fuggita per lo spavento. Ma in quel momento era divorata dalla gelosia. «Su via, signora, ditemi!» incalzò Madame Bonacieux con una energia di cui non la si sarebbe creduta capace. «Siete stata o siete sua amante?» «Oh, no!» esclamò Milady con un tono che non ammetteva dubbi sulla sincerità. «Mai, mai!» «Vi credo!» disse Madame Bonacieux. «Ma allora, perché avete gridato così?» «Ma come? Non capite», disse Milady, che, ripresasi dal turbamento, stava ritrovando tutta la sua presenza di spirito. «Come volete che capisca?» «Non so nulla», disse Madame Bonacieux. «Non capite che Monsieur D'Artagnan, in quanto mio amico, mi aveva confidato ogni cosa?» «Davvero? Non capite che sono informata di tutto? Il vostro rapimento dal padiglione di Saint-Germain, la sua disperazione, quella dei suoi amici, le ricerche inutili a partire da quel momento. E come volete che nasconda il mio stupore trovandomi, quando meno me l'aspetto, davanti a voi, di cui abbiamo parlato così spesso insieme, a voi che egli ama con tutte le forze dell'animo suo, a voi che egli mi aveva fatto amare prima ancora che io vi vedessi. Ah, cara Constance, finalmente vi trovo, finalmente vi vedo. E Milady tese le braccia a Madame Bonacieux, la quale, convinta da queste ultime parole, non vide più in quella donna che un attimo prima aveva creduto una rivale che un'amica sincera e devota. Oh, perdonatemi, perdonatemi, esclamò abbandonandosi sulla spalla di Milady. Lo amo tanto. Le due donne stettero un momento abbracciate. Certo, se le forze di Milady fossero state pari al suo odio, Madame Bonacieux sarebbe uscita morta da quell'abbraccio. Ma non potendo strozzarla, Milady le sorrise. «Bella, cara, buona piccina», disse Milady. come sono felice di vedervi, lasciate che vi guardi. E così dicendo la divorava realmente con gli occhi. Sì, siete proprio voi, sì, adesso vi riconosco, dalle sue descrizioni vi riconosco perfettamente. La povera giovane non poteva supporre quale paurosa crudeltà ci fosse dietro il muro di quella fronte pura, dietro quegli occhi tanto splendenti, dove ella leggeva soltanto interessamento e compassione. «Allora, sapete quello che ho patito?» riprese Madame Bonacieux. «Se lui vi ha detto quel che pativa, ma patire per lui è una felicità!» Milady ripeté macchinalmente. «Sì, è una felicità!» Pensava ad altro. «E poi...» continuò Madame Bonacieux. «Il mio supplizio volge al termine. Domani, forse stasera, lo rivedrò. E allora il passato non esisterà più.» «Stasera? Domani?» esclamò Milady, strappata alla sua meditazione da queste parole. «Che volete dire? Aspettate qualche notizia da lui? Aspetto lui, in persona. Lui in persona. D'Artagnan qui! Proprio lui!» «Ma è impossibile», disse Milady, «è all'assedio di La Rochelle insieme al cardinale, non tornerà a Parigi se non dopo la caduta della città.» «Così credete voi? Ma c'è forse qualcosa di impossibile a un nobile e leale gentiluomo come il mio D'Artagnan?» «Non posso credervi.» «Leggete allora», disse la sventurata giovane trascinata dall'orgoglio e dalla gioia, porgendo una lettera a Milady. «La calligrafia di Madame de Chevreuse», disse Milady tra sé. «Ah, lo dicevo io che da quella parte dovevano avere qualche aggancio.» E lesse avidamente queste poche righe. «Cara figliola, tenetevi pronta. Il nostro amico vi vedrà presto. E vi vedrà unicamente per farvi uscire dalla prigione dove la vostra incolumità esigeva che fosse nascosta. Preparatevi quindi alla partenza e non disperate mai di noi. Il nostro simpatico guascone si è mostrato coraggioso e leale come sempre. Ditegli che qualcuno gli è molto riconoscente dell'avvertimento che ha dato.» «Sì, sì», disse Milady. «La lettera parla chiaro. Sapete di che avvertimento si tratti?» «No. Suppongo però che avrà avvertito la regina di qualche nuova manovra del cardinale.» «Sì, certo, è così», disse Milady, restituendo la lettera a Madame Bonacieux e lasciando ricadere pensosa il capo sul petto. In quel momento si udì il galoppo di un cavallo. «Oh!» esclamò Madame Bonacieux, precipitandosi alla finestra. «Che sia lui!» Milady era rimasta nel letto, impietrita dalla sorpresa. Le capitavano d'un tratto tante cose inaspettate che per la prima volta la presenza di spirito l'abbandonava. «Lui! Lui!» mormorò. «Sarebbe lui!» E restava nel letto con gli occhi sbarrati. «A me no», disse Madame Bonacieux, «è un uomo che non conosco, ma che sembra dirigersi qui. Sì, rallenta la corsa. Si ferma alla porta, suona il campanello.» Milady balzò giù dal letto. «Siete proprio certa che non sia lui?» «Oh sì, più che certa. Forse avete visto male. Se vedessi anche solo la piuma del suo cappello, l'orlo del suo mantello, lo riconoscerei se fosse lui.» Milady continuava a vestirsi. «Non importa, quest'uomo viene qui, voi dite. Sì, è entrato. O è per voi, o è per me.» «Mio Dio, come sembrate agitata!» «Sì, lo confesso, non ho la vostra fiducia. Temo qualsiasi cosa da parte del cardinale.» «Silenzio!» disse Madame Bonacieux. «Viene qualcuno.» Difatti, la porta si aprì e entrò la superiore. «Siete voi che venite da Boulogne?» domandò la superiora Milady. Sì, sono io, rispose questa, cercando di riacquistare il sangue freddo. Chi mi cerca? Un uomo che non vuole dire il suo nome, ma che viene da parte del cardinale. E vuole parlarmi? Domandò Milady. Vuole parlare a una signora arrivata da Boulogne. Allora fate entrare, madre, ve ne prego. Oh Dio mio! Mio Dio, disse Madame Bonacieux, che sia qualche cattiva notizia. Lo temo. Vi lascio con questo forestiero. Non appena sarà andato via, se lo permettete, tornerò. Perché no? Ve ne prego. La superiora e Madame Bonacieux si ritirarono. Milady rimase sola, con gli occhi fissi sulla porta. Un attimo dopo si udì un rumore di speroni che risuonavano per le scale. Poi i passi si avvicinarono. La porta si aprì e un uomo comparve. Milady lanciò un grido di gioia. Quell'uomo era il conte di Rochefort, l'anima dannata di Sua Eminenza. Paolo Bonacelli ha letto I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it